il viaggiatore e il gioielliere. C'era una volta un uomo di nome Jay che viaggiava per il mondo, esplorando le bellezze della natura con il suo piccolo migliore amico, un cane di nome Rusky. Un giorno, mentre camminava attraverso un campo, Rusky si mise a guardare dentro un buco abbaiando. «Che cosa è successo? Cosa hai visto?» Andò verso il buco dove vide un uomo, una scimmia, una tigre e un serpente intrappolati all'interno. Essendo la persona gentile e dolce che era, decise di fare qualcosa per aiutarli. «Oh no! Devo salvare quell'uomo prima che venga divorato da quegli animali!» Si guardò intorno e trovò un lungo pezzo di corda. La prese e ne buttò un lato all'interno del buco. La scimmia afferrò rapidamente la corda e salì fuori. Successivamente il serpente si avvolse attorno alla corda e salì anche lui. Ed infine la tigre la afferrò e fu tirata su, fuori dalla fossa. I tre animali erano molto grati al turista e lo ringraziarono per la sua buona azione. «Grazie mille, gentile signore. Vivo sulle colline vicino alla città di Norlock. Se ti capita di passare da lì, sarebbe un onore aiutarti. Siamo anche noi grati che tu abbia aiutato. Vivo nel muro di Norlock e se mai avesse bisogno del mio aiuto, sarei felice di restituire il favore. Ma ti prego, non salvare l'umano laggiù. Tutti gli esseri umani, soprattutto quello, sono estremamente ingrati.» «Segui il nostro consiglio. È un uomo avido e ingrato che non era disposto ad aiutare e si è comportato in modo molto arrogante mentre cercavamo di trovare un modo per uscire. Tuttavia, grazie per il tuo aiuto e se mai ti trovassi nel bosco vicino il fiume Serona, mi sentirò obbligato a sdebitarmi con un dono.» Detto questo, se ne andarono nella giungla. Jay ignorò il consiglio che gli avevano dato e decise comunque di aiutare il povero uomo. Jay tirò la corda e aiutò l'uomo ad uscire dal buco. «Grazie, mi chiamo Rorkan e sono un gioielliere. Se mai ti troverai nella città di Norlock, allora sarò lieto di ripagarti per il tuo aiuto.» Detto questo, il gioielliere se ne andò verso la città e Jay continuò il suo viaggio. Jay attraversò il campo e Rusky giocava con gli uccelli che correvano dietro una farfalla finché non raggiunsero le colline dove furono accolti dalla scimmia. «Ciao amici! È così bello vedervi! Aspettate, torno subito!» «Certo!» Jay e Rusky si sedettero sotto l'albero in attesa che la scimmia tornasse. Nel giro di pochi minuti, la scimmia tornò con un bellissimo fischietto di bambù. «Soffia qua dentro ogni volta che avrai bisogno d'aiuto e l'aiuto arriverà!» «Grazie mille! Ora dobbiamo continuare il nostro viaggio!» Salutarono la scimmia e proseguirono giù per la collina. Scesero la collina e attraversarono i boschi dove videro la tigre camminare verso di loro. Si inchinò ai due e disse: «Ancora una volta grazie per avermi salvato. Aspetta qui e tornerò con qualcosa per te.» La tigre salì al fiume dove trovò la principessa di Norlock che stava per fare il bagno insieme ad alcune delle sue ancelle. Si avvicinò a loro e ruggì forte. Vedendo la maestosa bestia in piedi su una roccia, la principessa e le sue domestiche si affrettarono a scappare raccogliendo tutto ciò che potevano e corsero via per salvarsi. «Corri, principessa, corri!» La tigre corse su e lì trovò una scintillante collana di perle. Prese la collana di perle e tornò dal viaggiatore e la lasciò cadere di fronte a lui. «Ti prego, accetta questa come segno della mia gratitudine per avermi aiutato.» «Grazie, sei davvero così gentile.» «Oh, ed ecco una mela per questo piccoletto.» Ignari di come la tigre avesse preso la collana, si inchinarono alla tigre e attraversarono il fiume. E presto si ritrovarono nella città di Norlock. «Guarda, Rusky, abbiamo raggiunto la città. questo sarà un buon posto per noi per riposare e poi domani potremo continuare il nostro viaggio. Dai, andiamo! Sarebbe perfetto se riuscissimo a trovare il gioielliere Rorkan. Potremmo chiedergli di vendere questa collana per noi e potremmo avere dei soldi per i nostri viaggi e per il cibo. Cosa dici, amico? Vediamo se riusciamo a trovarlo vicino al mercato. Nel frattempo, quando le cameriere tornarono per recuperare le cose della principessa, cercarono freneticamente la preziosa collana di perle, ma non la trovarono da nessuna parte. Tornarono dal re, che stabilì una ricompensa per chiunque avesse trovato la preziosa collana e l'avesse restituita a lui. Jay e Rusky scesero al mercato dove trovarono la gioielleria di Rorkan. «Eccolo!» Rorkan fu contento di vedere il viaggiatore. «Ciao! Ma che bello vederti qui! Dimmi, come posso aiutarti?» «Sto attraversando la città e ho bisogno di un posto dove mangiare e riposare stasera. E tutto ciò che ho è questa collana. Speravo che potessi comprare questa collana per me. Potrei usare i soldi per il mio viaggio.» Vedendo la collana, Rorkan la riconobbe immediatamente. «Ah, questa è la collana che ho realizzato per la principessa Rhea. Devo informare il re e poi sarò più ricco che mai. Certamente. Perché non prendi qualcosa da mangiare prima? Siediti, tornerò presto.» Jay si sedette in attesa e Rorkan se ne andò di fretta. Il gioielliere andò subito alla corte del re e disse al re tutto della collana. «Vostra maestà, la persona che ha rubato e attualmente possiede la collana è ora seduta nel mio negozio.» «Meraviglioso, guardie! Portate quell'uomo davanti a me, adesso!» Jay e il suo cane Rusky furono portati davanti al re e, vedendo la collana tra le sue mani, ordinò immediatamente alle guardie di punire il viaggiatore. Ma! «Non voglio sentire un'altra parola! Camminerai lungo la città in manette, così che l'intera città capisca cosa succede quando rubi dal re. Prendetelo ora e chiudete quel cane in una gabbia.» E così il povero Jay fu costretto a camminare per la città in manette. La gente, nel vederlo passare, iniziò ad urlare contro di lui. «Ladro!» Sentendo la gente della città che lo chiamava per nome e gli urlava contro, Jay disse: «Se solo avessi ascoltato gli animali riguardo l'ingratitudine e l'egoismo di quell'uomo, non avrei dovuto affrontare una tale sventura.» Proprio in quel momento si ricordò di avere il dono della scimmia. Estrasse il fischietto dalla tasca e lo soffiò. Sentendolo, la scimmia raggiunse la città. «Oh no! È Jay!» Si avvicinò alla tana del serpente e lo chiamò. «Ehi, serpente, vieni fuori!» Il serpente uscì dal buco all'interno delle mura. «È Jay! È nei guai! Dobbiamo trovare un modo per aiutarlo! Conosco un modo! Grazie per avermelo detto!» Andò da sua sorella, che era in realtà un genio, e le raccontò l'intera storia. Lei acconsentì immediatamente ad aiutare. «Ecco, dai questo all'uomo quando ne avrai l'occasione. Farò un incantesimo alla bellissima principessa. Tu assicurati di dire al viaggiatore che l'unico modo per svegliare la principessa è facendole annusare questa foglia.» Il genio lanciò un incantesimo sulla principessa, che cadde in un sonno profondo. Il serpente andò invece nella cella della prigione, dove erano tenuti Jay e Rusky, e gli raccontò del piano. «Prendi questa foglia e quando farai convocato nella camera della principessa, lascia che l'annusi e lei si riprenderà.» Il giorno successivo il re e il suo ministro ebbero un acceso dibattito su come far svegliare la principessa. «Vostra maestà, tutti i dottori e gli eremiti hanno fatto del loro meglio per svegliare la principessa, ma tutto è stato invano, nulla ha funzionato.» «Chiama il mago, avrà una risposta.» «Il mago? Ma non abbiamo un mago in città?» Allora, una strega! Non mi interessa, trovare una, ora! Proprio in quel momento la terra tremò e con un'esplosione di fumo comparve una strega davanti al re. Qualcuno ha chiamato una strega? Eh? Guardie! Io so come svegliare la principessa! Aspetta, per favore, dici come? L'unico che può spezzare l'incantesimo e salvare la principessa è colui che è stato ingiustamente imprigionato. Va bene, chiamate il prigioniero. Jay fu immediatamente convocato nella camera da letto della principessa, dove le fece annusare l'aroma della foglia, che presto la svegliò dalla sua incoscienza. Mio piccolo angelo, grazie mille, figliolo. Hai salvato mia figlia. Dimmi, se non hai rubato la collana, allora come l'hai ottenuta? Jay raccontò tutto al re e questo lo ricompensò per aver salvato la principessa. E come punizione per le false informazioni e per non aver aiutato Jay per avergli salvato la vita, il re ordinò che il gioielliere Rorkan venisse imprigionato. Cosa? No! In questo modo Rorkan imparò una lezione importante, che bisogna sempre essere grati con chi ci ha prestato aiuto. Bisogna sempre restituire i favori ricevuti, invece di essere avidi ed egoisti.